Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. 8 giorni dopo, nello studio privato del senatore Buddenbrock, sulla poltrona di cuoio a fianco della scrivania, sedeva un vecchietto accuratamente raso, dai candidi capelli lisciati sulla fronte e sulle tempie. Il principale della ditta Johann Buddenbrock discuteva col mediatore Sigmund Gosch il prezzo d'acquisto per il vecchio palazzo della Mengstrasse. Ciò richiese parecchio tempo perché l'offerta di 28.000 talleri fatta dal signor Gosch sembrava troppo bassa al senatore, mentre invece il mediatore dichiarava che aggiungere a quella somma un solo marco d'argento sarebbe stata una follia e tanto valeva vendere l'anima al diavolo. Thomas faceva notare la posizione centrale e la non comune estensione del terreno, ma Gosch, con voce sibilante e soffocata, con le labbra stirate e con gesti raccapriccianti, gli impartì una lezione sul rischio schiacciante che si caricava sulle spalle. 87.000 marchi per la casa di sua madre, d'accordo? Il senatore Buddenbrock accettò. Come era da aspettarsi, la signora Permaneder dichiarò che quel prezzo era ridicolo. In considerazione delle memorie che vi erano legate, se qualcuno le avesse messo sulla tavola 1 milione, ella avrebbe detto che era onesto, nient'altro. Tuttavia, fece presto l'orecchio alla cifra che suo fratello le aveva comunicato, specie perché i suoi pensieri erano tutti presi dai progetti per l'avvenire. Era cordialmente lieta dei molti mobili che le erano toccati e quantunque nessuno pensasse per il momento a mandarla via dalla casa paterna, si dedicava con molto zelo alla ricerca di un nuovo appartamento per sé e per i suoi. Certo, il distacco le sarebbe riuscito penoso e questo pensiero le faceva salire le lacrime agli occhi. Ma d'altro canto, la prospettiva di novità e mutamenti aveva anche la sua seduzione. Non era quasi come metter su casa di nuovo per la quarta volta. Di nuovo andò a vedere appartamenti, di nuovo prese accordi col tappezziere, di nuovo trattò nei negozi per l'acquisto di tendaggi e tappeti. E aveva il batticuore. Proprio così. La vecchia signora, indurita dalla vita, aveva il batticuore. Passarono in tal modo le settimane, 4, 5, 6 settimane. Ma improvvisamente accadde un fatto drammatico. Una sorpresa straordinaria. La vita prese una piega che meritava e ottenne l'interessamento generale. Accadde, anzi, piombò come un fulmine, un fatto che fece rimaner di sasso la signora Permaneder in mezzo a tutte le sue faccende. Che cosa era successo? Ecco, si era già presentato un compratore, o perlomeno un individuo che si interessava all'affare e aveva manifestato il desiderio di vedere minutamente la proprietà messa in vendita per far seguire le trattative. E questo individuo era Hermann Hagerström, grande commerciante e console del Regno di Portogallo. Quando le prime voci giunsero alle orecchie della signora Permaneder, questa era rimasta paralizzata, sbalordita, sconcertata, incredula, incapace di accogliere quel pensiero in tutta la sua profondità. Ma ora che la questione andava sempre più concretandosi, ora che la visita del console Hagenström nella Mengstrasse era imminente, ora ella si riprese e si rianimò. Non protestò, ma si inalberò. Trovò parole roventi, parole taglienti. Incominciò a lanciarle come fiaccole incendiarie, come asce di guerra. «Non sarà mai, Thomas! Finché vivo ciò non avverrà! Quando si vende un cane si bada a chi lo si dà! La casa della mamma, la nostra casa, la stanza dei paesaggi!» «Ma io ti domando quali ostacoli ci siano veramente!» «Ostacoli! Dio buono, ostacoli! Montagne dovrebbero ostacolarlo, quel grassone! Montagne!» Ma egli non le vede, non se ne cura, non ha alcun sentimento. Che sia una bestia. Da tempi immemorabili gli Hagerström sono nostri rivali. Non sarebbe un'allucinazione? Perfettamente. Un incubo? Perché no? Una commedia da piangere? Basta, basta! E il console Hagerström si presentò nella Mengstrasse. Venne il Natale, la prima festa di Natale senza la mamma. La sera del 24 dicembre fu festeggiata nella casa del senatore, ma senza le Budenbrock della Via Larga e senza i vecchi Kröger. Come infatti erano finiti i periodici ritrovi di famiglia, così Thomas non aveva alcuna voglia di adunare lui e di coprire di doni tutti i partecipanti alle vecchie sere di Natale. Furono invitati soltanto la signora Permaneder, con Erika Weinschenk e con la piccola Elisabeth, Christian, Clotilde e Mademoiselle Weichbrot. Non c'era alcuna ragione di organizzare festeggiamenti allegri. I volti non erano certo raggianti di felicità. La conversazione non era certamente gaia. Di che cosa si doveva discorrere? Non c'era molto di buono nel mondo. Si ricordò la povera mamma, si parlò della vendita della casa, dell'appartamento luminoso che la signora Permaneder aveva affittato in una ridente casa sul Parco dei Tigli e di ciò che si sarebbe fatto quando Hugo Weinschenk fosse stato rimesso a piede libero. Fra un discorso e l'altro, il piccolo Johann suonò al pianoforte alcuni pezzi che aveva imparato col maestro Pfühl e, con qualche errore, ma con bella sonorità, accompagnò la mamma in una sonata di Mozart. Ebbe elogi e baci, ma poi fu messo a letto da Ida Jungmann perché, in seguito a un recente disturbo intestinale, era ancora pallido e fioco. Persino Christian, che dopo quel tale scontro nel Tinello non aveva più parlato di sposarsi e continuava a vivere con suo fratello nei vecchi rapporti non molto onorevoli per lui, era assai poco loquace e non aveva voglia di scherzare. Al principio del 1872 la casa della defunta signora Budenbrock fu disfatta. Le domestiche se ne andarono. Poi arrivarono nella Mengstrasse i carrozzoni dei mobili e si incominciò lo sgombero della vecchia casa. La cassapanca intagliata, i candelabri dorati e gli altri oggetti che erano toccati al senatore e a sua moglie furono trasportati nella Fischergrube. Christian prese un appartamentino da scapolo con tre stanze nei pressi del circolo e la piccola famiglia Permaneder Weinschenk occupò l'appartamento luminoso e arredato, non senza pretese di signorilità, sul Parco dei Tigli. Era un'abitazione graziosa e sulla porta d'ingresso si leggeva su una targa di ottone lucido a caratteri eleganti Antonie Permaneder Buttenbrock. Appena la casa della Mengstrasse fu vuota, vi comparve uno stuolo di operai che incominciarono a demolire l'edificio posteriore, oscurando l'aria con la polvere dei vecchi calcinacci. Il terreno era passato definitivamente nelle mani del console Hagenström. Egli l'aveva comperato e pareva che avesse impegnato la sua ambizione in quell'acquisto, perché aveva rincarato subito un'offerta giunta a Sigmund Gosch da Brema e ora si era messo a sfruttare la sua proprietà in quel modo ingegnoso che tutti ammiravano in lui. Già in primavera entrò con la famiglia nel palazzo dove lasciò, per quanto era possibile, ogni cosa al suo posto, riservandosi però qualche piccolo rinnovamento e alcuni mutamenti improrogabili consoni ai tempi nuovi. Si abolirono, per esempio, tutti i campanelli all'antica, sostituendoli con campanelli elettrici. La signora Permaneder aveva giurato più volte a suo fratello che nessuna forza al mondo l'avrebbe mai potuta indurre a rivedere la casa paterna. Ma non fu possibile mantenere la promessa e ogni tanto bisognava passare per forza davanti ai negozi affittati molto vantaggiosamente e alle vetrine dell'edificio posteriore, oppure lungo la veneranda facciata dall'altra parte dove si leggeva il nome del console Hermann Hagenström sotto il Dominus Providebit. In quelle occasioni la signora Permaneder Budenbrock si metteva a singhiozzare per la strada in presenza della gente. Buttava indietro la testa come un uccello che incominci a cantare, si premeva il fazzoletto sugli occhi e mandava un gemito che era per metà protesta e per metà lamento. Dopodiché si abbandonava al pianto senza preoccuparsi dei passanti o delle preghiere di sua figlia. Era ancora quel suo pianto di fanciulla, spontaneo e consolatore, che l'aveva conservato in tutte le tempeste e nei naufragi della vita. Spesso nei momenti tristi, Thomas Buddenbrook si chiedeva chi fosse dopo tutto, che cosa gli desse il diritto di credersi, sia pure poco, più in alto dei concittadini, semplici borghesi onesti e limitati. Lo slancio della fantasia, il vivace idealismo della sua giovinezza erano finiti. Quel che aveva potuto raggiungere lo aveva raggiunto, e sapeva bene che da parecchio aveva superato il vertice della vita, seppure di vertice si poteva parlare in una vita così mediocre. Nell'ambito degli affari il suo patrimonio passava per alquanto ridotto e tutti ritenevano che la ditta fosse in decadenza. Adesso il senatore lavorava per lo più solo alla grande scrivania di Mogano del suo studio privato. In primo luogo perché nessuno lo vedeva quando, con la testa fra le mani e gli occhi chiusi, rimuginava i suoi pensieri, ma soprattutto perché la stomachevole pedanteria con la quale il suo socio Friedrich Wilhelm Marcus allineava gli oggetti sulla scrivania e si lisciava i baffi l'aveva scacciato dal suo seggio presso la finestra dell'ufficio principale. Egli si sentiva vuoto nell'anima e non vedeva più progetti allettanti e lavori avvincenti ai quali dedicarsi con gioia e soddisfazione. Ma il suo bisogno di agire, la sua insofferenza di riposo, la sua attività, che era sempre stata fondamentalmente diversa dalla tenace e costante laboriosità dei suoi padri, una cosa artificiosa dunque, un bisogno dei nervi, un narcotico in sostanza, simile alle sottili e forti sigarette russe che egli fumava, quell'attività non lo aveva abbandonato, ed egli riusciva meno che mai a dominarla. Essa, anzi, aveva il sopravvento, era diventata un martirio, poiché si sciupava in un'infinità di cose futili. Era molestato da mille bagatelle insignificanti che in gran parte riguardavano soltanto l'amministrazione della casa e del suo vestiario. Faceva continue economie fin dove era possibile senza esporsi alle chiacchiere, eccetto quando si trattava del vestiario per il quale si serviva dal più elegante sarto di Amburgo e per il cui mantenimento e completamento non badava spese. E intanto strani particolari affioravano, strani bisogni che egli stesso notava con stupore e disgusto. In contrasto con coloro che non agiscono ma, inosservati e celati agli sguardi altrui, fanno tranquilli le loro osservazioni, egli non amava avere le finestre alle spalle, sapersi nell'ombra e veder gli altri davanti a sé in piena luce. Sentirsi invece la luce negli occhi in mezzo abbagliati e vedere davanti a sé nell'ombra gli spettatori, il suo pubblico, coloro sui quali doveva agire come amabile conversatore o come vivace uomo d'affari o come principale di una ditta in vista o come pubblico oratore. Questo soltanto gli dava il senso di distacco e di sicurezza, la cieca ebbrezza di chi recita, e qui soltanto otteneva i suoi trionfi. Anzi, proprio quello stato di ebbrezza teatrale era diventato a poco lo stato che preferiva. Quando col calice in mano sorgeva in piedi e faceva un brindisi col volto amabile, con gesti simpatici e con frasi abili che colpivano nel segno e provocavano sereni consensi, nonostante il suo pallore, poteva sembrare il Thomas di una volta. Molto più difficile gli riusciva a conservare il dominio di sé quando era seduto e inerte. Allora la stanchezza e la noia si impadronivano di lui, gli intorbidivano lo sguardo e gli toglievano ogni potere sui muscoli del viso e sul portamento. Un unico desiderio lo prendeva allora, di abbandonarsi a quella sorda disperazione, di allontanarsi di soppiatto e di andare a casa a posare la testa su un cuscino fresco. con quello sguardo di stanco scoramento col quale prevedeva il resto della propria vita, Thomas Buddenbrook non riusciva a leggere nell'avvenire del piccolo Johan. Glielo impediva il suo attaccamento alla famiglia, sia ereditato sia inculcato dall'educazione, rivolto tanto al passato quanto all'avvenire. Egli pensava con soddisfazione che, per quanto si sentisse personalmente disfatto e privo di speranze, tuttavia di fronte al suo piccolo erede era ancora capace di animarsi e di sognare. E se un giorno da vecchio, in un angolino quieto, avesse potuto assistere ad una ripresa del tempo antico, di quando viveva il bisnonno di Hanno? Ora veniva il tempo in cui a un padre si offre l'occasione di agire a sua volta sul figlio, di tirarlo un poco dalla sua e di neutralizzare con impressioni virili la precedente influenza femminile. Il senatore era deciso a non trascurare l'occasione. A Pasqua, Hanno, ormai undicenne, era stato promosso alla seconda, come il suo amico, il contino Möln, per il rotto della cuffia, e con due esami di riparazione, in aritmetica e in geografia. Era stabilito che dovesse frequentare le tecniche, perché ben si intendeva che doveva diventare commerciante e assumersi un giorno l'azienda. Bisognava badare soprattutto a consolidare e a migliorare la sua costituzione, non robustissima, da un lato usando riguardi e dall'altro rinvigorendolo in modo razionale. Con quei capelli castani divisi su un lato e spazzolati dalla fronte in su, mentre tuttavia tendevano ad arricciarsi morbidamente sulle tempie, con le ciglia lunghe e brune e con quegli occhi bruno-dorati, Johan Buddenbrook, nonostante la marinara danese, si distingueva nel cortile della scuola e per la strada dai compagni biondi coi loro occhi azzurri come l'acciaio di tipo scandinavo e aveva un che di esotico. Negli ultimi tempi era cresciuto parecchio, ma le sue gambe, vestite di calze nere, e le braccia dentro quelle maniche turchine gonfie e ricamate, erano morbide e sottili come quelle d'una fanciulla, e ancora aveva, come sua madre, quelle ombre azzurrine nell'angolo degli occhi, occhi che, specialmente quando guardavano di sbieco, avevano un'espressione pavida e negativa. Ai giochi sportivi Hanno partecipava soltanto quando suo padre glielo ordinava espressamente, e in quel caso anche Kai lo accompagnava. Lo stesso accadeva d'inverno col pattinaggio e d'estate coi bagni laggiù nel fiume, nello stabilimento di legno del signor Asmussen. Ma ciò che tratteneva in special modo Hanno dai bagni, dal pattinaggio e, se appena era possibile, dai giochi sportivi, era il fatto che i due figli del console Hagenström, i quali partecipavano a tutti quegli esercizi facendosi onore, ce l'avevano con lui, e quantunque abitassero nel palazzo di sua nonna non lasciavano passare alcuna occasione per torturarlo e umiliarlo con la loro forza. Alimenti sostanziosi ed esercizi fisici di ogni genere formavano la base delle cure che il senatore Buddenbrook aveva per suo figlio, ma non meno badava ad agire sul suo spirito e a procurargli vive impressioni della vita pratica alla quale era destinato. Incominciò a introdurlo a mano nel regno della sua futura attività. Lo prese con sé nei suoi giri d'affari, giù nel porto, lo fece assistere alle sue conversazioni con gli scaricatori sulle banchine. Se non che il piccolo Johan vedeva più di quanto avrebbe dovuto e i suoi occhi, quegli occhi timidi, bruno-dorati, cinti di ombre azzurrine, osservavano fin troppo. Egli non vedeva soltanto la franca amabilità che suo padre esercitava su tutti, vedeva con un acume strano e tormentoso quanto quell'arte fosse difficile da seguire. Vedeva che dopo ogni visita suo padre si adagiava nella carrozza più laconico, più pallido. Quel presentarsi e discorrere e comportarsi e muoversi fra la gente non era nella mente di Johan una manifestazione ingenua, naturale e semicosciente di interessi pratici che si hanno in comune con altri o si vogliono far valere contro altri, ma una specie di fine a se stesso, uno sforzo consapevole e artificioso che, invece di una sincera e semplice partecipazione interiore, richiedeva al proprio atteggiamento e alla spina dorsale un virtuosismo difficilissimo e sfibrante. E al pensiero che un giorno anche lui, a quanto si sperava, dovesse presentarsi in pubbliche assemblee e agire con la parola e col gesto sotto l'oppressione di tanti sguardi, Anno chiudeva gli occhi con un brivido di angosciosa ripugnanza. Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @chiocciolarai.it.